Ciao, mi chiamo Giovanni e vivo in Lombardia. Sono logopedista. Lavoro in un ambulatorio che è chiuso da 8 giorni. Nelle prossime settimane darò il mio contributo agli ospedali lombardi, insieme ad altri operatori sanitari. Sono anche capo scout. Non vedo i miei ragazzi dal vivo da più di un mese. Oggi vi leggo un capitolo tratto da Il cane, il lupo ed io di Folco Terzani, edito da Longanesi, 2017. Arriva la notte. Il sentiero si fece sempre più ripido, sempre più roccioso. Ma, pensò il cane, ormai mancherà poco. L'aveva detto Golden che entro sera sarebbe arrivato. Ma quando girò intorno al costone, scoprì che il sentiero proseguiva ancora, e quando giunse in cima alla collina, l'unica cosa che vide fu un'immensa foresta che si estendeva in tutte le direzioni. Di quel luogo, di infinita abbondanza che si aspettava di trovare, nessuna traccia. Quanto è grande questa foresta! Non c'è nemmeno un villaggio da qualche parte. Non ci sono più umani qui. Come farò? Continuando a pensare che era quasi arrivato, il cane proseguì per la sua strada. Non sapeva, però, che in montagna la notte cala rapidamente. È tutto a un tratto, il sole tramontò ed era buio. La paura lo attanagliò. Come poteva sopravvivere da solo in una foresta di notte? Con la partenza del sole, tutto attorno a lui si trasformò. Un mondo fece posto a un altro. I colori, uno a uno, furono riassorbiti dalle cose. E quel bosco verde allegro divenne cupo come un cimitero. I fiorellini gialli e viola che urlavano il sentiero si rannicchiarono, chiudendosi nei loro petali, e nell'aria si spense la loro fragranza. Anche i rumori cambiarono. Alle orecchie acute del cane non giungeva più quel continuo frusciare di lucertole e saltellare di cavallette che gli aveva tenuto compagnia tutto il giorno. Si zittirono anche i trilli felici degli uccellini. Adesso si espandeva solo un grande silenzio, interrotto ogni tanto dal desolato e inquietante forse di un gufo lontano. Gli uccelli erano ritornati nei loro nidi, i topi erano scomparsi nelle loro tane sotterranee. E lui, il cane, dove avrebbe dormito? Ahimè, come sono stupido, pensò. Cosa ci faccio in piena notte, tutto solo, in un bosco? Questa non è casa mia. Io sono un cane di città. Guarda di qua, guarda di là, ma nessun posto gli andava bene. O era troppo duro, o c'erano troppe foglie, o era troppo sporco e polveroso. Com'era bello il mio letto morbido. Era buio ormai, e il cane non vedeva quasi più dove metteva le zampe. Convinto com'era che a momenti sarebbe stato aggredito da una bestia feroce, quando passò accanto a un rovo e le spine gli si impigliarono nel pelo, si immaginò afferrato da artigli e si abbandonò al panico. Cominciò a correre all'impazzata, scappò avanti e indietro e in su e in giù, e poi fece una giravolta e andò a sbattere contro una roccia, scappò dalla roccia, si imbatté in un arbusto, scappò anche da quello, perse ogni senso dell'orientamento. Continuò a correre come un indemoniato, finché non mise una zampa nel vuoto. Solo a quel punto le altre zampe si bloccarono impietrite. Dal vento che soffiava dal basso, capì che era sull'orlo di un precipizio. Stavo per lasciarci la pelle, si disse. Devo calmarmi. Di nuovo si ricordò del lupo che aveva incontrato al mattino, di quegli occhi dorati, di quella voce sicura e profonda. Fidati, anche tu troverai un posticino dove dormire. Non appena il cane tornò un briciolo di fiducia, il crinale stesso su cui stava si schiarì abbastanza da fargli scorgere delle sagome. Allora si ritirò piano piano dal precipizio e vide fra le pietre una lucina che subito dopo si spense e si riaccese e si rispense. Il cane cominciò a seguirla e le sue zampe avvertirono una via fra le pietre che diventò sempre più morbida e muschiosa, finché anche il tessuto di foglie sopra la sua testa si aprì e si ritrovò in mezzo a una radura su cui centinaia di lucciole stavano ballando. Sette grandi alberi circondavano la radura e brillavano argentei sotto i raggi di uno spicchio di luna. Il cane era stanchissimo, non dormiva da giorni, aveva passato tante di quelle avventure che le sue zampe si rifiutavano di fare un altro passo. Cadde in terra, lì dove si trovava, e appena chiuse gli occhi, si addormentò.